Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Pepe Moder ai microfoni remoti di Torino per parlare oggi di e-commerce con Luigi Vilmo Franceschetti, presidente di Saccheria Franceschetti, che avevamo incontrato qualche mese fa durante il roadshow Piccola Industria Avanguardia di Impresa di Confindustria. Buongiorno Luigi. Buongiorno Pepe. Allora, di nuovo bentornato ai microfoni di Radio Next. Saccheria Franceschetti, l'avevamo già detto in una precedente puntata l'anno scorso, produce sacchi. Voi siete, vi definite stracivendoli, la cosa ogni volta che lo dico mi fa sorridere. Ma sei qua oggi non tanto per raccontarci che cosa avete fatto, quanto che cosa state facendo in questo momento. A proposito di e-commerce, Saccheria Franceschetti, che cosa sta facendo? Allora, noi non volevamo essere travolti dall'innovazione, ma la vogliamo sempre gestire. Sì. La cosa che abbiamo fatto semplicemente è stata quella, in tempi non sospetti, prima di questo coronavirus, di insistere sull'e-commerce, il B2B, e rompere qualsiasi indugio. Mm-hmm. Qualsiasi indugio che nasce dai tipici problemi come, oddio, le relazioni con gli agenti, certo, i clienti passeranno a un meccanismo, un processo di questo tipo. E quindi fortunatamente abbiamo intrapreso questa strada prima, e quindi adesso tutto sommato ne godiamo dei benefici. È brutto da dire, ma almeno siamo pronti. Le nostre operazioni sono state poco toccate, ecco. Quindi tu mi stai dicendo che voi in questo momento state vendendo sacchi di juta, sacchi di plastica professionali. A chi li state vendendo? Guarda, li stiamo vendendo, essendo la nostra azienda nel codice Ateco che può farlo, sì. Li stiamo vendendo soprattutto al settore alimentare, ma soprattutto al settore dei mangimifici, perché uh-huh, ovviamente bisogna andare a mangiare, e quindi abbiamo visto un'impennata di richieste di imballaggio, mm-hmm, qual è quello che facciamo noi per questi settori che non possono chiudere. Ma quali sono state le resistenze da parte dei vostri agenti di vendita, da parte della vostra rete di distribuzione tradizionale? Guarda, è incredibile questo fatto qui, che non è stato facile proprio prima di questa emergenza riuscire a convincere che tutto sommato gli acquisti che vengono fatti sull'e-commerce sono di importi molto piccoli, tali mm-hmm, per cui un agente comunque non si paga neanche la benzina magari per andare, chiaro, a chiudere una vendita che è inferiore ai 500-1000 euro. E quindi c'è stata molta persuasione, però ci siamo riusciti. Vedo adesso che quasi tutti stanno rompendo un po' questi indugi. Noi abbiamo preferito farlo prima. Quanto, esatto, ci avete messo a mettere in piedi il sistema di e-commerce? Guarda, ci abbiamo messo circa 6 mesi, perché abbiamo fatto una cosa abbastanza complessa, nel senso che per me non è e-commerce se il processo non è completamente automatizzato. Quindi è partita da un'analisi anche delle RP, nel nostro caso è SAF Business One, quindi abbiamo reso possibile il fatto che effettivamente dietro l'e-commerce non ci sia una persona che in realtà registra gli ordini alla vecchia maniera, certo, sennò non ha senso. Quindi è stato un processo abbastanza lungo. E come è gestibile un e-commerce da remoto? Alla fine comunque i pacchi bisogna imballarli, bisogna caricarli sui camion, bisogna mandarli direttamente al cliente che te li ha ordinati. Guarda, come ben sai, noi abbiamo anche una startup che fa software per la gestione del magazzino, che sì, si chiama Eli, e il sistema è perfettamente integrato dentro Eli. Il volume adesso dell'e-commerce è sufficiente per lo copre bene una persona sola. Poi c'erano già delle automatizzazioni molto spinte per l'invio dell'email automatico una volta raggiunta la dimensione di un certo carico di un furgone o di un camion. Quindi essenzialmente il magazzino, anzi per tutto l'e-commerce, è un one man show. Però Luigi, proviamo a metterci un attimo nei panni di un'impresa manufatturiera che in questo momento l'e-commerce non ce l'ha. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa in un webinar della Business School del Sole 24 Ore, proprio sull'opportunità di poter costruire un e-commerce in tempi brevi per cercare di mantenere aperto un canale di vendita che in questo momento probabilmente con il blocco di parecchi codici Ateco non permette la spedizione a grossisti, a rivenditori, a negozi che magari sono chiusi. Secondo te è fattibile riuscire a mettere in piedi in poche settimane un e-commerce magari proceduralizzando alcune attività in maniera tradizionale, a mano, su carta, per poi magari fare un'evoluzione in un secondo momento quando le cose saranno ripartite? Sì, guarda, è sicuramente possibile ed è quello che vedo da altri amici. È successa una cosa curiosa, che ho ricevuto parecchie chiamate di amici imprenditori a cui avevo accennato questo passaggio, perché come hai detto tu è un po' un overkill, pareva un overkill fare l'e-commerce per degli stracivendoli, come giustamente ci hai definito. Ho ripreso la vostra definizione. No, lo so, infatti hai fatto benissimo. Quindi sì, è sicuramente possibile. Secondo me il fine che a cui bisogna attendere è molto semplice, quello di dire guarda che questa tipologia di operazioni sarà il futuro, perché è comprensibile per tutti che, per, io spero per meno possibile essendo un uomo di vendita, ma che sarà difficile nel breve periodo che un agente o un venditore diretto vada a trovare i clienti nella maniera tradizionale. Sì. Quindi un altro vantaggio che dà l'e-commerce come l'abbiamo costruito noi, o come lo può costruire un'azienda non perfettamente integrato ma come analisi e meccanismo, è quello di permettere anche al cliente tradizionale di fare un ordine su un listino non aperto al pubblico, solo su alcuni prodotti, e quindi gestire proprio la transazione della vendita senza l'incontro fisico. Peraltro, scusami Luigi, in realtà sì, lo stesso sistema vi permette anche di acquisire ordini per telefono, no? Sì, assolutamente. A noi consente di impersonare il cliente, o anche l'agente può impersonare il cliente e fare per conto del cliente, magari spero che un giorno sia possibile di persona, più fretta possibile, fare l'ordine come fosse un ordine fatto dal cliente stesso. Certo. E i tuoi competitor, quando hanno visto che Saccheria Franceschetti incominciava a vendere online, che cosa hanno detto, cosa hanno fatto? Qualcuno ha storto il naso, sicuramente, nel senso che, sai, anche tradizionalmente esporre i prezzi è sempre un po' un tabù in Italia. Sì. Quindi noi in Saccheria Franceschetti abbiamo fatto questa scelta, soprattutto ovviamente sull'e-commerce, su 3.000 referenze che abbiamo, ce ne saranno circa una sessantina, perché sono i prodotti ovviamente a maggior rotazione da catalogo. Certo. C'è un altro vantaggio poi notevole, che appunto penso che alcuni competitori abbiano compreso, e può darsi che ci siano a breve anche alcuni follower, presumo. Il fatto che comunque una persona che non, ed è ben chiaro sul nostro sito, è che se non trovi il prodotto che c'è cercando in vetrina, puoi contattare, e quindi il prodotto tailored, quindi personalizzato, può essere fatto. Quindi è anche uno strumento per raccogliere ordini che non necessariamente arrivano certo per comprare sull'e-commerce. Certo. Un'altra peculiarità del momento è che mi pare che il cliente, che sia B2B che B2C, non importa, abbia abbattuto un po' le barriere nei confronti di certi preconcetti per cui la spedizione doveva essere gratuita, accettando in questo momento di difficoltà anche costi di spedizione che in realtà assorbono i costi di logistica che giustamente vengono ricaricati al cliente finale al momento della vendita. È una cosa che hai notato anche tu, o dal vostro punto di vista invece i clienti si aspettano ancora la spedizione a costo zero? Perfettamente ragione. Tra l'altro, come al solito, dai problemi secondo me nascono delle grandissime opportunità. Sì. Quando siamo partiti abbiamo avuto un cliente che ha avuto una protesta, perché non era ben chiaro non tanto il costo ma i tempi di spedizione. Sì. In realtà erano ben scritti, però noi sempre ragioniamo dicendo, se sono ben scritti ma qualcuno si lamenta, forse li abbiamo scritti male. Certo. E quindi la prima azione è stata quella di scrivere con un font un po' più grande. Più grande, esatto, certo, esatto. Usabilità. Ma, esatto, ma da questo poi è nata un'altra opportunità che sì. È simile a quella che dici tu. Noi abbiamo detto, benissimo, c'è qualcuno che vuole la spedizione più veloce, uh-huh. Benissimo, facciamo una cosa, facciamo un esperimento, proviamo a metterci d'accordo con lo spedizioniere, sì. Fare una spedizione più rapida, sì. Farla pagare molto di più, sì. Ed abbiamo avuto un relativo alto successo per questa cosa, proprio perché l'esigenza, sì, il bisogno che e quindi, guida. Ma anche lascia stare il problema che c'è adesso del Covid. Sì. Può darsi che anche un'azienda preferisca avere uno stock inferiore e pagare di più una spedizione rapida, perché certo. È ovvio che se è una spedizione rapida puoi fare più ordini spezzati, certo. E quindi avere uno stock inferiore. Luigi, per chiudere, quali sono i risultati che voi oggi state ottenendo rispetto alla vendita online e quali erano le aspettative? Guarda, le aspettative era di riuscire ad arrivare a una certa cifra del fatturato che sicuramente superiamo se non raddoppiamo. Adesso stiamo spingendo mostruosamente sulla parte dell'estero, quindi con le varie traduzioni, sì. Del sito. Noi contiamo di arrivare entro il 2021 a circa il 20% del fatturato online. È un elemento estremamente rilevante. Sì, sì, sì. E ti ripeto, ogni giorno scopri un mondo interessantissimo, fatte di nuove competenze. Ringraziamo allora Luigi Vilmo Franceschetti, presidente di Saccheria Franceschetti, ai microfoni di Radio Next, che salutiamo. Buona giornata e in bocca al lupo, Luigi, con il vostro e-commerce. Grazie mille a te, ciao Pepe. E un saluto ai nostri ascoltatori che sono stati ancora con noi in questo momento di difficoltà. Mi raccomando, non molliamo né di un centimetro né tantomeno di un secondo la presa sulla produzione e sul cercare di fare ripartire le nostre attività per quanto possibile. Dai microfoni di Radio Next un saluto a tutti voi. Noi ci troviamo la prossima domenica alle 13.45 in onda su Radio 24 oppure con la versione estesa del podcast il lunedì. Un saluto da Pepe Moder. We'll be right back.